America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, cominciamo subito con un paio di notizie. Il presidente Barack Obama ha un po' chiuso quella che è la formazione della sua squadra per il secondo mandato. Ha nominato Dennis McDonough come capo di gabinetto della Casa Bianca, un veterano della Casa Bianca, intimo del presidente. Ha nominato anche quattro donne in posizioni importanti, rispondendo così a coloro che lo attaccavano dicendo che le donne erano sparite dalla sua amministrazione appunto nel secondo mandato. Si è aperto il dialogo sull'immigrazione, insomma le cose si muovono, ma io oggi non vorrei parlare di politica, vorrei parlarvi di un caso che ha colpito la città e che riguarda l'arresto di un italiano a New York. Bene, vi do rapidamente la storia. La storia è di questo turista napoletano, un avvocato, Graziano Graziussi, 43 anni, che era andato a mangiarsi una bistecca da Smith & Wollensky e a un certo punto arriva il conto, si accorge che non ha abbastanza soldi, non ha il portafoglio, insomma non ce la fa a pagare il conto, dice guardate io vado a casa, torno e vi pago il conto. Il ristorante dice no, assolutamente, tu paghi qui. Lui dice ma non ce li ho, vi lascio il mio telefonino, vado e torno. Insomma, hanno chiamato la polizia e il signor Graziussi, per un conto di $208, è stato arrestato, portato in prigione, ha passato la notte in prigione, poi il giorno dopo davanti al giudice è stato rilasciato, ha pagato il conto e la faccenda si è chiusa. La polizia dice ma a noi ci sembrava il ticcio, sembrava che avesse bevuto, in realtà voleva non pagare il conto. Insomma, ci sono ovviamente versioni diverse di questa faccenda. Io ho provato a chiamare la polizia. You will reach the 17th Precinct Community Affairs Office. Please leave your name, telephone number and a brief message and your call will be returned as soon as possible. Thank you for calling. Ecco, prima nessuna risposta, poi ho trovato questo agente. Yeah, well, if someone doesn't pay at a restaurant, it's theft of service and you're under arrest unless you can pay it. And if you can't pay, you go to jail. E l'agente mi dice chiaramente, ma insomma, se quello ha avuto un servizio e non paga, è semplice, viene arrestato e lo portiamo dentro. E così, punto e basta. Ho chiamato Smith & Wollensky. Sir, there's nothing I can say to the matter right now. Allison is the one who's handling everything. There's nothing I can say to the matter. Nessuna posizione ufficiale a Smith & Wollensky, dicono che c'è una portavoce, però questa ancora non si è fatta viva e non ci ha detto nulla. Ecco, al di là del caso e del fatto che ci sono sempre in queste situazioni versioni discordanti, io vorrei parlare di questo con un avvocato italiano a New York, un avvocato penale, Germana Giordano, che si occupa di casi di questo genere. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Allora, domanda, ma è normale che uno vada in un ristorante e dica ma guardi non ce la faccio, adesso riporto i soldi, le do il mio telefonino e viene arrestato? Assolutamente no, è eccessivo. È eccessivo. Ecco, però a New York succede o sbaglio? Fortunatamente succede spessissimo. Ecco, quindi intervengo, avvertiamo i nostri ascoltatori che se vengono in vacanza a New York, devo dire io l'America poi la considero un paese straordinario, però ci sono queste rigidità, la polizia a volte abusa del suo potere. Se per esempio tu vai in giro con una bottiglietta di alcol che non è dentro una busta di carta, puoi venire arrestato. Se fai superi un certo limite di velocità, puoi venire arrestato e ti portano subito in prigione. È così o sbaglio? No, è così, purtroppo è così. È una cosa che spaventa, è una cosa che sembra quasi non reale, ma è la realtà di New York. È una città meravigliosa per tanti aspetti, però la polizia a volte abusa del loro potere senza riguardo a quelli, diciamo, che sono dei parametri simili in altre parti del mondo dove ci sono dei rapporti più umani più spiegabili. Eppure c'è scritto sul loro, il loro motto è courtesy, professionalism and respect, cioè cortesia, professionalità e rispetto. Non mi sembra che in quel caso ce n'era nessuno dei tre, tanto più che sembra che questo signore ha detto ma vabbè adesso voi mi avete preso, andiamo, accompagnatemi, porto i soldi e pago. E invece l'hanno portato dentro e poi c'è stata andato davanti al tribunale, eccetera. Ecco, lei ci può raccontare qualche caso particolare che le è capitato di questo genere? Me ne capitano continuamente, infatti io proprio negli ultimi anni ho sviluppato una pratica a difendere questi italiani che sono nella maggior parte delle volte delle bravissime persone, dei bravissimi ragazzi, dei professionisti in vacanza che vengono a New York ed improvvisamente la loro vacanza si trasforma in un incubo per delle cose semplicissime, come per esempio fumarsi una sigaretta in una parte in un parco come Central Park, dove da pochissimo tempo è cambiata la legge e non si può fumare, e addirittura l'infrazione costituisce un reato minore punibile fino ad un anno di reclusione. Oppure, per esempio, sempre con questi parchi ci sono varie regole in cui non si possono attraversare i parchi ad alcune ore del giorno o della notte, e quindi i turisti non si accorgono neanche della segnaletica e vengono fermati, gli vengono consegnati questi summons, queste desk appearance tickets e così via, e si ritrovano con un caso di natura penale senza neanche accorgersi o valutarne le conseguenze finché tornano in Italia, ed improvvisamente hanno, diciamo, quella visione che il problema è più grave di quello percepito e non sanno più come destreggiarsi. L'America è un paese stupendo, io sono la prima fan di questo paese, però c'ha comunque diciamo delle regole che sono veramente troppo rigide. Ecco, però, però scusi, le regole sono le regole, lo sappiamo, però un poliziotto ha il, diciamo, il diritto, non il dovere, di applicare la regola. Se si accorge che quello è un turista tedesco, il quale poveraccio non sa che non si può fumare la sigaretta nel parco, gli dice guarda, stai attento, e lo vede che non è un trafficante di droga. Ecco, cos'è che spinge il poliziotto newyorkese a prendersela con queste persone che sono chiaramente innocenti? È così una forma di sadismo? Come se lo spiega? No, io penso che una forma, loro non hanno proprio la flessibilità di aggiustare il loro comportamento ad una situazione specifica. Anzi, nella mia esperienza, più è minore il reato, più sono abusivi. Perché di certo in situazione neghetti, quando qualcuno viene arrestato per un reato di violenza o di altro, la polizia è molto più cauta. Secondo me abusano le persone per bene. Ecco, abusano le persone per bene e le minoranze. In effetti ho sentito negli ultimi giorni delle storie, perché mi ha incuriosito questa storia, in cui mi sono reso conto che appunto persone assolutamente per bene, normali, lo vedi che una persona per bene, eppure certo, vengono attaccati, vengono aggredite queste persone, dicono ah, tu cosa ti credi di essere? Mettiti a uno, l'hanno fatto stendere per terra, gli hanno puntato la pistola alla nuca perché sembra che avesse fatto un eccesso di velocità che poi non c'era perché non è andato la multa. Ecco. Guardi, le racconto un aneddoto molto divertente. Io vivo ad Harlem da molti anni, sono sposata con un ragazzo bellissimo che è un African American e guido un fuoristrada. Io le posso garantire che forse il primo anno della mia vita ad Harlem, quando non avevo ancora familiarità con la polizia della zona, ogni volta che da diciamo Caucasian, da donna bianca, mi avvicinavo alla mia casa per depositare la spesa, incontrandomi con mio marito, venivo sistematicamente fermata dalla polizia pensando che addirittura comprassi delle droghe. Invece io semplicemente consegnavo le buste della spesa a mio marito, che da Africa in America si avvicinava alla mia macchina per portarle su nella nostra abitazione. Mi è successo in più di un'occasione per il primo anno di mia vita ad Harlem, il che veramente era raccapricciante. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, dopo un lungo periodo di silenzio, gli Strokes hanno diffuso a sorpresa un nuovo single dal titolo One Way Trigger, e dunque lo dedico a loro, The Strokes, One Way Trigger. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!